Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. E allora la cronaca di questa giornata economico-finanziaria: non vi sarà l'astrologa, ma come promesso avremo invece altri operatori dei mercati per parlare di investimenti. Inizio anno lo facciamo ogni volta. Andamento delle borse, ipotesi di correzione, micro correzione, sgonfiamento di alcune bolle, le parole di Mario Draghi nel fine settimana, che ha detto, in quanto non solo governatore della Banca d'Italia ma presidente del Financial Stability Board, attenzione, i mercati scommettono su una ripresa in maniera un po' troppo così ottimistica. E di questo parleremo nella seconda ora del programma, chiaramente agganciandola anche alla notizia di cronaca, l'avete appena ascoltata nel nostro GR, i rendimenti dei bot sono tornati allo zero, anzi praticamente meno di zero. Però la giornata finanziaria oggi si contraddistingue anche con la borsa, perché dopo un inizio anno in cui le borse hanno guadagnato più o meno il 2,5% su base europea, oggi c'è la prima correzione un po' significativa, meno 0,7%, Parigi perde l'1%, Francoforte fa peggio, meno 1,60%, la peggiore in Europa è Atene, adesso ne parleremo, oltre il 2% di calo, ma Londra perde lo 0,80%, l'America lo 0,26%. Bene comunque a Milano, Fondiaria Sai più 5,6%, Ansaldo più 1,6% come la Popolare di Milano, e bene anche Snam Rete Gas che guadagna l'1,3% come il Banco Popolare, Terna più 1,2%, CIR più 0,70%, Monte dei Paschi mezzo punto percentuale di rialzo. Chi perde? C'è un gruppo di titoli che perde intorno al 3% e si chiamano Tenaris, Saipem e Autogrill. Poi Atlantia meno 1,90%, Steamark Electronics meno 1,80%, Eni meno 1,70%, l'1,6% lo perde Mondadori, ma anche Italcementi e Xor, 1,5% il calo di Mediobanca e di Fiat, l'1,2% quello di Prismian e Unipol. Parmalat perde l'1%, Pirelli pure, e anche Unicredit e Luxottica cedono l'1% in questo momento, con un euro a quota 1,4532, quindi poco mosso nei confronti del dollaro. Parleremo, dicevo, di bot e investimenti, ma apriremo su un tema prettamente italiano, invece anche un tema legato più agli Stati Uniti. Perché? Perché avrete letto sui giornali oggi la decisione presa ieri dalla Casa Bianca di applicare una tassa, chiamiamola come vogliamo, ma insomma per far pagare anche alle banche i costi e ottenere dei soldi, incassare dei soldi, soprattutto grazie alle banche d'affari, mentre domani partirà la commissione d'inchiesta su come si sono comportati i manager bancari durante la crisi finanziaria, e di questo parleremo in apertura. In apertura avremo anche un'altra notizia che riguarda invece i dati diffusi oggi dall'Istat, in realtà è una conferenza stampa in cui si è parlato un po' di tutto, però sono emersi anche i dati interessanti sul fronte dell'occupazione: 2 immigrati su 3 hanno un'occupazione, visto che il tema degli immigrati è quanto mai delicato ed attualità in questo periodo. E tra l'altro ci sono dati interessanti anche sulla formazione degli italiani: metà della popolazione adulta italiana ha come titolo di studio il diploma di scuola media. Questo emerge in un rapporto presentato oggi dall'Istat che si chiama Noi Italia, il centro di statistica del paese per capire la nazione in cui si vive, e poi altri dati sulla solvibilità dell'impresa. Ne parleremo appunto in apertura, poi torneremo sulla vicenda Cadbury. Tutti la vogliono, la britannica Cadbury, soprattutto sembra ormai pronto il piano della Ferrero, aiutata dagli advisor che sono stati Mediobanca e Rothschild, e soprattutto aiutata da un prestito che verrà elargito, per quello che si è capito, soprattutto da Unicredit, 3 miliardi e 1 miliardo e mezzo Mediobanca, in alleanza con Hershey, l'americana Hershey, e soprattutto capitali anche di altri fondi, per rilanciare su un'offerta che Kraft ha fatto su Cadbury e che Cadbury ha già rifiutato 10 miliardi di sterline, circa un po' più di 11 miliardi di euro. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Restiamo come sempre in apertura sui mercati. Il petrolio $81 al barile, comunque sempre sopra quota 80. I rialzi invece non si placano, i rialzi della benzina. Chiaramente la verde è arrivata a un passo da 1,37 e il diesel a 1,2. Stiamo parlando del livello massimo da un anno a questa parte. La marca più cara si conferma quella di Shell, e appunto ha messo mano ai prezzi di benzina e diesel, con aumenti di 1,1 centesimi per la benzina e di 1,2 centesimi per il diesel. Ecco perché si porta vicinissima la benzina a quota 1,37 e il diesel a quota 1,2. Ancora Terna, questo è un dato interessante e a mio avviso è uno di quei dati empirici, come si chiamano in gergo, che servono molto per capire, al di là di tante analisi, dichiarazioni di ottimismo, di pessimismo, quanto abbia pesato la crisi nel 2009. Sappiamo che i consumi hanno frenato ma non sono crollati, però il dato diffuso oggi da Terna sull'andamento dei consumi elettrici la dice lunga sulla frenata che ha avuto soprattutto l'industria, perché insomma gli italiani avranno anche risparmiato sulla bolletta elettrica, ma non sicuramente tanto quanto ha fatto l'industria, con il 25% in medio di crollo della produzione industriale. Insomma, i consumi dell'energia elettrica in Italia nel 2009 sono crollati del 6,7% e a parità di giorni lavorati del 6,5%. Praticamente l'anno scorso l'Italia, inteso come privati cittadini e imprese, ha avuto bisogno di 316,9 miliardi di kilowattora, con un calo ancora più forte nel primo semestre, dimostrazione che la crisi economica ha morso soprattutto nei primi sei mesi, meno 8,7%. La domanda di energia è calata anche nel secondo semestre, ma meno 4,6%. La cosa interessante, diciamo così, è che un calo di questa entità non si vedeva dal 1945, il che, ripeto, vuol dire che soprattutto la frenata dell'industria non era così forte quanto consumi elettrici da allora. Infatti l'Italia era appena uscita dalla Seconda Guerra Mondiale quando registrò un calo del 6,7% nei consumi di elettricità. Questo lo dico perché poi per molti mesi abbiamo sentito ipotesi varie sui pessimisti, non pessimisti, dati così non si vedevano dal 45. Vedo che volete già sapere di Ferrero e Cadbury, ne parleremo a mercati chiusi, ma comunque, ripeto, oggi il gruppo inglese, oggetto di un'offerta ostile da parte di Kraft, ha detto che è irrisoria l'offerta da 10 miliardi e mezzo di sterline, perché i conti di Cadbury sono molto buoni e quindi vanno anche oltre le attese e l'offerta è insufficiente. Tra l'altro, ripeto, resta sul tappeto e anzi si sta, a mio avviso, anche strutturando l'offerta tra della Ferrero e di Hershey. Fondiaria Sai, anche qui vedo dei messaggi al 349-238-6666. Sì, e resta in assoluto il miglior titolo, ne parleremo durante i mercati finanziari. Certo che sullo sfondo restano le ipotesi assolutamente non confermate di un possibile interesse di AXA per Fondiaria Sai. Nessun commento, ripeto, oggi dal colosso francese, che si è mosso molto poco in borsa. Deficit commerciale americano, ne parleremo in apertura, oltre le attese, ahimè, 36 miliardi e mezzo il deficit, la differenza tra quanto l'America ha esportato e quanto ha importato, quindi le importazioni sono cresciute ben più delle esportazioni. Fa invece così quasi scalpore il dato sulla produzione industriale indiana, cioè in un'Europa in cui ancora a novembre i cali della produzione industriale rispetto all'anno prima erano a due cifre, 15, 18, 20%, l'India ha fatto più 11,7% a novembre, nella sua produzione industriale l'aumento più forte da 2 anni. E infatti si inizia a ipotizzare in maniera molto realistica che l'India possa a questo punto aumentare i suoi tassi di interesse per evitare un'inflazione da troppa crescita. La Cina nel frattempo ha aumentato non i tassi di interesse ma di 0,5 punto percentuale la quota dei depositi che le banche commerciali sono obbligate a mettere a riserva. Che cosa vuol dire questo? La Cina vuole evitare bolle anche in questo caso del credito, cioè un credito concesso troppo facilmente, e obbliga le banche commerciali a accantonare, diciamo così, più soldi a riserva per evitare appunto un riscaldamento eccessivo dell'economia. Problema che da queste parti in Europa non si registra, il freddo, il grande gelo non è solo quello meteorologico, è ancora quello sull'andamento economico. Saliranno le riserve a partire dal 18 gennaio e quindi porteranno i livelli al 15,5% per le maggiori banche e al 13,5% per quelle più piccole. E non è un tema da poco, perché molti osservatori in realtà hanno paura che questa corsa cinese, dovuta anche a un boom vero e proprio dei crediti che le banche cinesi stanno elargendo, rischi di creare una bolla del credito, che avrebbe tra l'altro anche l'effetto di mettere a rischio la ripresa mondiale, visto che la ripresa mondiale si chiama Cina e India. Con la conseguenza che anche la Cina si avvierebbe ad alzare i propri tassi di interesse, oggi ha alzato i rendimenti dei titoli di Stato a breve termine, cioè l'equivalente dei nostri bot, e a questo punto le scommesse sono di un aumento dei tassi di interesse in Cina entro metà del 2010. Il rendimento, per chi fosse interessato a acquistare bot cinesi, delle obbligazioni emesse oggi dalla Banca Popolare della Cina, a 12 mesi il rendimento, dicevo, è dell'1,84%. Certo che in Cina il timore più grosso riguarda il cosiddetto carry trade. Che cosa vuol dire? Praticamente è quella tecnica per cui tu chiedi soldi a prestito laddove i tassi di interesse sono molto bassi, quindi ti costa zero, e poi li investi laddove, in valuta, dove i rendimenti sono molto alti. Ci sono paesi infatti in cui i tassi non sono a zero. Questo carry trade suscita in Cina forte timore di bolle speculative. In realtà le banche internazionali prendono in prestito nelle economie avanzate soldi a tassi bassi e poi prestano gli stessi soldi, in questo caso ai paesi emergenti, e giocano sulla differenza. Ecco, il rischio è che appunto questo giochetto del carry trade prima o poi resti in mano come un cerino. E se i rendimenti cinesi dei bot aumentano, calano quelli invece dei bot italiani, anche di questo parleremo. Praticamente i bot a 3 mesi hanno un rendimento sotto zero, praticamente esattamente allo meno 0,08. Vedo l'ultimo dato sulla borsa greca, che ha più che un calo ha avuto un tonfo, meno 5%, ne parleremo durante i mercati. Che cosa è successo? Soprattutto i titoli bancari in Grecia hanno perso l'8%. C'è stato un rapporto della Commissione Europea che ha definito inattendibili non gli ultimi dati sul deficit, ricorderete quella cosa pazzesca in cui la Grecia ha detto che il deficit viaggiava intorno al 3,5% e poi si è scoperto che era al 12,5%, aveva taroccato banalmente i conti, ma dice che inattendibili i passati, quindi non solo gli ultimi ma quelli degli anni precedenti, dati sul deficit e il debito pubblico. E il Presidente dell'Unione Europea è arrivato ad Atene, ma soprattutto è attesa per una missione del Fondo Monetario, che sta valutando molto molto concretamente la possibilità di dare un'assistenza tecnica alla Grecia. Allora, partiamo dai primi temi di questa puntata e mi riferisco soprattutto alla conferenza stampa dell'Istat, che Italia emerge da questo da questa conferenza stampa, e poi parleremo anche degli Stati Uniti e della campagna, nuova campagna della Casa Bianca contro i bonus dei banchieri, in attesa che domani parta la commissione d'inchiesta proprio su come si sono comportati questi manager. 349-238-6666 per i vostri sms. Eh sì, perché mentre ci sono e continuano gli scioperi spontanei a Termini Imerese, dopo le parole di Sergio Marchionne, che ha detto insomma la fabbrica in Sicilia si chiude nel 2012, continuano anche le occupazioni, insomma, il fenomeno degli operai che salgono sui tetti. Oggi è la volta del tetto della mensa dell'azienda Novaceta di Magenta, in provincia di Milano, produce fibre tessili. 185 dipendenti su 200 sono in cassa integrazione, e questa mattina una decina di operai sono saliti appunto sul tetto della mensa aziendale. E poi c'è un'iniziativa sempre sul fronte dell'occupazione che, come si dice con una frase un po' fatta, è destinata a fare discutere. Torniamo al tema dell'immigrazione. A Bergamo, nel Bergamasco, per la precisione a Villa Dogna, il comune ha deciso di dare un aiuto economico a chi ha perso il lavoro a causa della crisi economica, ma deve vivere nel paese da anni e deve essere italiano, quindi nessun aiuto agli stranieri. Ma andiamo avanti. Di stranieri ha parlato l'Istat oggi. 2 immigrati su 3 hanno un'occupazione, sono il 7,6% del totale, e il tasso di attività della popolazione straniera, cioè gli occupati tra gli stranieri, sono molto più degli occupati tra gli italiani. 73%, quindi 2 su 3 lavorano contro 6 su, o meglio 7 su 10 lavorano contro 6 su 10 per quello che riguarda gli italiani. Anche in realtà il tasso di occupazione, non solo la disoccupazione, è più alta negli stranieri. C'è una disoccupazione più bassa e un'occupazione più alta, le due cose non coincidono. Nel mercato del lavoro italiano escono più persone di quante non entrino, e come ricordavamo in apertura, per quello che riguarda la cosiddetta formazione, metà degli italiani può vantare ancora solo una licenza di scuola media. E poi un riferimento anche indiretto a questa guerra che alcuni hanno difeso tra poveri, altri tra camorra e migranti. Mi riferisco chiaramente a quanto è avvenuto Rosanna in Calabria, perché la Banca d'Italia oggi fa sapere che in realtà le migrazioni, i migranti non sono solo quelli così extracomunitari, sono dal sud, sono transitati, diciamo così, o migrati al nord, 80.000 laureati praticamente tra il 2000 e il 2005. Un laureato ogni 100 residenti se n'è andato dal sud per emigrare al nord. In realtà ho detto nord, ma la maggior parte sono migrati nel nord del paese, altri sono andati direttamente all'estero. L'Istat ci fa sapere poi che la dimensione media delle imprese italiane resta molto piccola, 4 addetti per impresa, soltanto il Portogallo e la Grecia hanno una media di addetti per impresa più piccola della nostra, che le imprese al sud sono meno solvibili, hanno più difficoltà a ripagare i debiti contratti di un punto percentuale, e che gli occupati nella pubblica amministrazione, qui non vorrei poi passare il resto dell'ora a rispondere ai messaggi, gli occupati nella pubblica amministrazione in Italia sono in media meno che negli altri paesi. Poi questo non vuol dire nulla sulla loro efficienza, però è inutile continuare a dire che ci sono troppi dipendenti nella pubblica amministrazione, sono frasi fatte, luoghi comuni. Noi abbiamo 14 lavoratori su 100 che lavorano nella pubblica amministrazione. Noi siamo addirittura nella parte bassa della graduatoria europea quanto al numero di dipendenti della pubblica amministrazione, siamo al 23° posto. E le conclusioni, la sintesi, la tratta Enrico Giovannini, che è presidente dell'Istat, al microfono la nostra Chiara Di Michele. Ha detto Giovannini: il calabrone Italia, la famosa immagine sull'Italia come un calabrone che non si sa perché ma riesce a volare contro ogni legge della natura. Il calabrone Italia c'è, ma il rischio sul futuro è alto. Sentiamo. È un paese molto più articolato, molto più differenziato. Ci sono aree del sud che certamente presentano degli elementi di novità molto importanti, aree del nord come la Liguria, in cui l'invecchiamento della popolazione è un problema serissimo, non solo oggi ma anche nel lungo periodo. È un paese con luci e ombre, con una capacità di crescere alcunché meno degli altri sul piano economico, ma è un paese che ha generato molti milioni di posti di lavoro negli ultimi anni, prima della crisi. È un paese con una imprenditorialità ancora diffusa e molto forte, ma è anche un paese che purtroppo investe poco in cultura, investe poco in lettura di quotidiani, libri e così via, e in istruzione. Sembra essere un paese che investe poco sul suo futuro, ma che si concentra molto sull'oggi, e questo può diventare un problema nel lungo periodo. L'Italia è comunque un calabrone che vola. Beh, questo non l'ho inventato io, è un mistero per molti economisti, per esempio, in giro per il mondo, su come un sistema così povero di grandi imprese, così ricco di piccole imprese, così povero di materie prime, eccetera, sia riuscito a ottenere in questi 50 anni questi risultati straordinari. Questo vuol dire che ci sono anche altre forme di capitale, qual è il capitale sociale, il capitale umano, che contano quanto il capitale fisico, che è quello prodotto dalle attività economiche. Questa è una caratteristica non unica in Italia, ma certamente un punto di forza importante. E quindi un'idea di un'Italia un po' miope sugli investimenti futuri. Il calabrone è un esempio che esiste da decenni, c'è anche un libro, se non ricordo male, Luca Paolazzi, Fabrizio Carimberti, su questa anomalia italiana. Il calabrone, sapete che non dovrebbe per le leggi della fisica volare, invece riesce a volare, così si disse dell'Italia, che pur avendo tutto un insieme di handicap dalla dimensione dell'impresa ad altro, riesce comunque a restare tra i primi posti nei paesi industrializzati. Vabbè, non avevo dubbi, stanno arrivando anche gli sms sui pochi dipendenti pubblici. Ragazzi, se sono pochi, sono pochi, fatti 100 il numero degli occupati. Che poi la nostra pubblica amministrazione in alcuni casi funzioni male, lo sappiamo tutti, in altri casi no. Che la sanità funzioni male al sud, ne abbiamo parlato decine di volte, al nord funziona molto meglio, però evitiamo le generalizzazioni e adesso andiamo all'estero. Andiamo all'estero perché, è stato un problema di base, perché da domani prenderà il via la commissione decisa dalla Casa Bianca per analizzare quello che hanno fatto i manager americani prima e durante la crisi, in un periodo in cui, proprio con l'inizio anno, Barack Obama è tornato, dopo aver in qualche modo risolto la riforma sanitaria, è tornato a puntare l'indice contro Wall Street. Commissione d'inchiesta parlamentare sulle banche, dicevamo, e nel frattempo, proprio da inizio gennaio, abbiamo avuto un insieme di dichiarazioni tutte accusatorie nei confronti dei manager e dei bonus dei manager bancari americani. La citavamo anche ieri, Christina Romer, numero uno dei consiglieri economici della Casa Bianca, ha definito scandalosi i bonus. Ancora l'11 gennaio, quindi ieri, il procuratore generale di New York Andrew Cuomo ha avviato un'inchiesta sui premi a dipendenti e a dirigenti delle 8 grandi banche d'affari americane che hanno ricevuto aiuti pubblici. Il programma TARP vale più di 200 miliardi di dollari, e quindi Bank of America, Bank of New York, Mellon, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, State Street Corporation e Wells Fargo. Ha fatto molto scalpore soprattutto Goldman Sachs, con 17 miliardi messi da parte per i mega bonus, ossia 600 mila dollari dipendente. E poi ha detto daremo molto in beneficenza. Il 21 gennaio esce la trimestrale di Goldman Sachs, ma anche JP Morgan, i dipendenti riceveranno in media 460 mila dollari di bonus. Il tutto mentre in America oggi il dato sul deficit commerciale è un brutto dato, 36 miliardi e mezzo di deficit, un paio di miliardi in più rispetto agli analisti. Ce n'è abbastanza per salutare Mario Platero in collegamento con noi da New York, dove è corrispondente del Sole 24 Ore per gli Stati Uniti. Buonasera Mario. Buonasera Sebastiano. Allora, che cos'è? Poi andiamo in pubblicità e ti faccio fare analisi più complessa e articolata anche su domani. Ma come mai riparte proprio inizio gennaio questa campagna così della Casa Bianca contro i bonus? Per un motivo di fatto, perché questi qua hanno la faccia di tolla e come hanno avuto le prime trimestrali utili si sono rimessi ad autodistribuirsi i bonus, o perché Barack Obama ha capito che concentrandosi troppo sulla riforma sanitaria stava mollando la presa su Wall Street e Timothy Geithner, il suo segretario al tesoro, è un po' troppo deboluccio su quel fronte? Beh, diciamo subito che Barack Obama ha capito che l'opinione pubblica americana non ne può più, ne ha abbastanza, non può credere che le banche, dopo essere state aiutate dal denaro dei contribuenti, dopo essersi riprese, dopo aver ottenuto tassi di interesse molto molto bassi per poter dare crediti più agevolati alle aziende, ecco, hanno poi perseguito di nuovo il modello tra virgolette speculativo, usando i bassi tassi di interesse per fare degli importanti guadagni di mercato, mettendo delle griglie all'erogazione del credito, che è stata sempre più difficile, e nel momento in cui hanno rimborsato i prestiti allo Stato si sono sentite completamente autonome e libere di fare quello che volevano, e dunque di elargirsi dei prestiti, dei premi produzione miliardari. Ecco, dal punto di vista delle banche ovviamente la posizione è ineccepibile, cioè, ma noi abbiamo guadagnato, abbiamo fatto il nostro lavoro, non abbiamo rubato nulla a nessuno. Ecco, però c'è chiaramente una totale mancanza di sensibilità, anche se vuoi di umore politico, da parte di queste istituzioni nel momento in cui in America la recessione, di cui le banche, diciamo senza voler dare tutta la colpa a loro, ma comunque sono state coprotagoniste per la crisi finanziaria, ecco, ci sono ancora milioni di disoccupati, 7 milioni di disoccupati in America, il disavanzo commerciale, l'abbiamo visto oggi, continua a peggiorare, il dollaro basso ancora non ha aiutato, l'economia fatica a riprendersi su ritmi che avremmo sperato potessero essere già a questo punto più elevati. Oggi il New York Times il Wall Street Journal racconta che alcuni posti di lavoro non si recupereranno mai più, e dunque c'è un'atmosfera, una situazione di scollamento totale tra Wall Street e Main Street. Il presidente, essendo un politico, è schierato ovviamente con Main Street e dunque cerca di recuperare laddove l'opinione pubblica pensa che ci sia una qualche complicità, fra virgolette, tra la sua amministrazione, fatta di uomini come Geithner, come Bernanke, molto vicini all'establishment bancario di New York, e che ci sia dunque stato così qualche favoritismo a loro favore. Allora, dopo il metodo e la pubblicità, vorrei sapere da te che cosa poi di concreto potrà capitare, perché c'è un'espressione non americana ma napoletana che dice facite la faccia feroce, non vorremmo che tutto poi si tramutasse in grandi dichiarazioni, musi duri, come scrivono anche alcuni ascoltatori al 349-238-6666, però poi la possibilità di intervento in una democrazia, in economia così liberale, cioè è anche difficile, oppure si sta pensando anche a qualche iniziativa legislativa? ...17:40 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque Mario Platero, quali strumenti concreti ha Barack Obama al di là, diciamo, di fare la faccia feroce? Per esempio, va in questa direzione il progetto di una tassazione ulteriore sulle banche d'affari che potrebbe portare, diciamo, nelle casse americane 120 miliardi di dollari? Come dire, se avete i conti così in ordine che vi date anche i bonus, noi vi tassiamo. Sì, ci sono due o tre strade per cercare di rispondere a questa situazione che, devo dire, vista da qua sta diventando davvero in qualche modo insostenibile. Allora, la prima è Barack Obama che reagisce con una tassa, ancora non ha dato dettagli, si immagina che possa esserci una tassa non soltanto per le banche d'affari, ma per tutte le banche, sulle passività di bilancio. Il totale delle passività di bilancio riflette il rischio a cui è esposta la banca e dunque si tende a tassare il rischio. Credo che siano allo studio delle metodologie per verificare che parametri vi sono tra l'esposizione delle passività rispetto al patrimonio e rispetto all'attivo di bilancio. Se dovessero esserci degli scompensi molto forti, ecco, questi scompensi che in qualche modo ci consentono di pensare che ci sia un eccesso di esposizione di rischio, ecco, allora verranno tassati. Questa può essere un'idea, ma nulla di confermato, è soltanto una delle tante ipotesi. L'ingresso di altri 120 miliardi di dollari nel caso dello Stato americano ovviamente non è una cifra da poco. Qualcuno dice ma insomma non è granché, ma no, in realtà se pensiamo che la prima manovra di George W. Bush fu una manovra da 100 miliardi di dollari di stimolo, l'ingresso di 100 miliardi di dollari nelle casse comunque non è poca cosa. Una cifra non secondaria. Abbiamo poi la commissione d'inchiesta parlamentare, una commissione indipendente, domani farà il suo debutto. La commissione è stata nominata dalla leadership della Camera e del Senato, bipartitica, sia repubblicani che democratici hanno potuto esprimere i nomi che hanno formato questa commissione di 10 persone. Sarà una commissione di inchiesta vera e propria, cercherà di ricostruire che cosa è successo nella crisi finanziaria e di identificare se possibile delle responsabilità. Ecco, che questa inchiesta si traduca, come riuscì a fare l'inchiesta della commissione Pecora negli anni 30, subito dopo la crisi del 29, conduca alla identificazione di responsabilità che possono poi essere perseguibili in tribunale, questo non lo sappiamo, ma c'è già un segnale, devo dirti Sebastiano, concordo in qualche modo con i nostri lettori che hanno mandato degli sms dicendo ma poi alla fine non se ne farà nulla. Perché? Intanto il capo di questa commissione è l'ex tesoriere della California, un politico, dunque non un procuratore come invece era Pecora, il leggendario procuratore della commissione d'inchiesta degli anni 30, che poi finì per mandare in galera il segretario al tesoro, il responsabile della banca centrale, insomma ci furono delle conseguenze direi molto drastiche. La dichiarazione di Angelidis, che è appunto il presidente di questa commissione, non promette bene, ha detto ma noi non siamo qui per fare la caccia alle streghe, non vogliamo necessariamente colpire delle persone o delle istituzioni, vogliamo capire che cosa è successo per evitare che il rischio si ripresenti. Non è quello che vuole l'opinione pubblica. Ecco, su questo vorrei farti un'ultima domanda prima dell'informazione per chi è in viaggio, quindi in un minuto. Politicamente rischia di danneggiare maggiormente il consenso di Barack Obama tutta la polemica molto attuale sulle falle, sui buchi dell'intelligence americana e quindi l'incapacità dei vari servizi di prevenire quanto è accaduto a fine 2009, oppure in maniera forse più strisciante questo Obama che sembra troppo morbido con Wall Street? Caro Sebastiano, una domanda come si direbbe da $1 milioni. Aggiungiamo anche la riforma sanitaria che lo ha danneggiato moltissimo sul piano dell'immagine con una forte base centrista americana. Ha tre problemi e tre fronti Barack Obama, su qualcuno cerca di reagire, finora purtroppo per lui non abbiamo avuto dei grandi risultati, la partita è aperta ma le elezioni ormai sono fra poco. Novembre sembra lontano, ma per i politici è dietro l'angolo. E non solo in America. Grazie Mario Platero, le informazioni per chi è in viaggio, poi la borsa, un aggiornamento sulla lotta per acquistare Cadbury, quindi da un lato Kraft, dall'altro parrebbe con molta probabilità il gruppo Ferrero assieme a un alleato americano e alle banche italiane. Di nuovo in diretta la borsa, dunque oggi prima seduta da inizio anno così negativa. Non parlo solo di Milano che ha perso lo 0,80%, ma penso a Francoforte meno 1,6%, Parigi meno 1 e Londra meno 0,70%. C'è poi il tonfo di nuovo di Atene che ha perso più del 5% con titoli bancari in calo di oltre l'8% dopo che la Commissione Europea ha detto i dati su deficit e debito greco sono inattendibili, non solo quelli del 2008 ma quelli degli anni precedenti. Comunque, Andrea Fontana, Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, partiamo dal titolo di oggi, Fondiari Assai, più 5,70%, indiscrezione di un quotidiano che diceva AXA, il colosso francese AXA potrebbe essere interessato a Fondiari Assai. AXA non ha commentato, il titolo si è mosso poco, però Fondiari è cresciuta quasi a 12 euro per azione. Sì, certo, sul mercato diciamo che l'assenza di smentite convinte, anzi proprio l'assenza di smentite da una parte e dall'altra, e quindi dei due soggetti interessati, AXA e Fonsai, è stata presa almeno per il momento come una parziale conferma, almeno giudicando i volumi e l'andamento di Fonsai, che ha guadagnato il 5,7%, che ha soprattutto è stata trattata in maniera molto, molto consistente, è stato scambiato oltre il 3% del capitale ordinario. Le indiscrezioni di stampa parlavano di contatti e di una fase ancora interlocutoria, ma certo se questo riaprisse il mercato dell'M&A nel settore assicurativo, il mercato ci salterebbe su un po' come ha fatto oggi. È stata premiata Fonsai, ma è stata premiata anche la Milano Assicurazioni, sì, che appartiene sostanzialmente allo stesso gruppo di controllo, ha guadagnato il 4,8%, come tu ricordavi. Le vicende invece del gruppo Mariella Burani Fashion Group pesano ancora su antiche pellettieri, anche perché il titolo Mariella Burani è sospeso da fine agosto. Peggior titolo oggi, meno 6,90. Set Vagine Gialle, meno 6,5, perché ieri aveva fatto l'esatto opposto. Sì, c'è molta volatilità su Seat, soprattutto si attende quello che è stato, che si concretizzi in maniera più chiara per il mercato, quello che è stato annunciato negli ultimi giorni dell'anno, cioè allo studio l'emissione di un titolo di debito che possa almeno ristrutturare in parte l'esposizione finanziaria del gruppo. Ricordiamo che poi Seat contemporaneamente a quell'annuncio aveva anche rivisto ulteriormente al ribasso le stime per l'anno. È naturale, quindi il mercato si trovi particolarmente disorientato, i movimenti di questi giorni, ma non sono certo una novità per quanto riguarda Seat, sì, finiscono per dimostrarlo. Ancora un paio di titoli, oggi la giornata vede la Popolare di Milano guadagnare l'1,7%, adesso ne parliamo, Ansaldo STS più 1,7%. Dopo un report positivo di Goldman, ma io i report non li voglio o non li vorrei più citare, soprattutto quando lo fa un gruppo che ha appena deciso di distribuirsi 12 miliardi e mezzo di dollari di bonus, grazie appunto a quanto bravi sono stati nel 2009. Cerchiamo di avere un po' di coerenza anche nel programma. Non citiamo il report di Goldman, se non se ne abbia Goldman Sachs, tanto guadagna lo stesso. Popolare di Milano, più ne 70. Sì, per quanto riguarda la Popolare di Milano, diciamo che c'è un ritorno d'attenzione da parte del mercato. Oggi è stata una giornata peraltro positiva per gli istituti popolari, bene anche il Banco Popolare più 1,3%. C'è un ritorno appunto su quei titoli bancari che nel 2009 hanno corso un po' meno. In particolare la Popolare di Milano ha fatto una performance del 20% più o meno inferiore alla media delle altre banche italiane, ma l'attesa per quanto riguarda l'istituto è per l'annunciato piano industriale che dovrebbe essere presentato al mercato nei primi mesi all'inizio del 2010, almeno così è stato detto, e soprattutto il mercato attende di capire se la politica di contenimento dei costi avrà dato già il suo frutto sul 2009, quindi c'è stato un ritorno d'attenzione in vista di novità positive sul fronte dei costi e sul fronte del piano industriale. Per quanto riguarda Ansaldo, tu hai citato Goldman, ma bisogna anche dire che in serata è arrivato un nuovo contratto da 7,4 milioni sul mercato russo per quanto riguarda il sistema di segnalamento ferroviario appunto in Russia, e diciamo il mercato ha finito per premiare con un rialzo significativo la controllata del gruppo Finmeccanica. Ultimo gruppo di titoli peggiori: Tenaris meno 3, Saipem meno 3, Eni meno 2, Autogrill meno 2,80%. Novità su Tenaris, Saipem e Eni? Beh, senz'altro il settore delle materie prime è stato penalizzato una correzione da parte del petrolio sotto quota 82. Oggi va anche detto che non hanno certo influenzato positivamente il mercato le indicazioni arrivate dalla statunitense Chevron, che è stata particolarmente negativa per quanto riguarda riguarda i profitti del quarto trimestre, annunciando che saranno significativamente inferiori a quelli del terzo a causa del peggioramento dei margini di raffinazione. Questo ha finito per penalizzare un po' tutto il comparto, appunto Tenaris e Saipem in particolare, ma anche ne ha risentito una perdita di quasi il 2%. Autogrill? Per quanto riguarda l'autogrill non ci sono stati significativi movimenti, non c'è significative notizie nella giornata di oggi. Va detto che il mercato ha corretto sia ieri che oggi. Autogrill è stata uno dei primi. Sì, c'erano voci di un possibile nuovo incarico per il ministero legato, tondato. Sì, però all'interno del sempre del gruppo Benettoni, certo. 21 investimenti, ma non penso che sia questo il motivo per cui si muove il titolo. Comunque, grazie Andrea Fontana, Radio Corriere del Sole 24 Ore. Restiamo in tema di operazioni a cavallo tra finanza e economia, e quindi la lotta per comprarsi il cioccolato inglese. Ne abbiamo parlato molte volte. Dopo che la Kraft annunciò a suo tempo, con un'offerta ostile, di mettere sul piatto oltre 10 miliardi e mezzo di sterline per comprarsi il colosso britannico del cioccolato, ma non solo, Cadbury, offerta respinta. Oggi Cadbury ha detto: i nostri conti sono meglio di quanto noi stessi ci attendessimo, e quindi l'offerta di Kraft è un'offerta irrisoria, l'ha definita. Ma non è tutto qui, perché resta molto aperto, anzi si va via via delineando quella che potrebbe essere l'altra offerta, quella del gruppo Ferrero, con 4 miliardi e mezzo di aiuti bancari messi in campo da Unicredit e Mediobanca, 3 miliardi Unicredit, 1 miliardo e mezzo Mediobanca, in alleanza con il colosso americano Hershey e probabilmente con altri fondi. Comunque, Carlo Festa del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Tu oggi scrivevi su Sole 24 Ore che Kraft starebbe ragionando a questo punto se alzare l'offerta per Cadbury. Ma di che cifra stiamo parlando? Perché noi abbiamo capito che Ferrero potrebbe arrivare ad avere dalle banche, da queste due banche, 4 miliardi e mezzo. Ma in tutto Ferrero e gli americani di Hershey quanto potrebbero mettere sul piatto? Insomma, qua bisogna cercare di mettere un'offerta superiore, insomma, quella di Kraft, che appunto è 16,6 miliardi di dollari, cioè 11 miliardi di euro, quindi dovrebbe arrivare a 17 miliardi di dollari. Ecco, vorrei anche partire anche da un dato di fatto che mi giunge oggi appunto da indiscrezioni, che probabilmente Ferrero si starebbe raffreddando sull'offerta. E quindi c'è in corso questo ragionamento, diciamo tra ieri e oggi ci sono state una serie di riunioni che hanno visto la famiglia di Alba appunto impegnata con l'eventuale alleato Hershey per disegnare una controfferta. Giungono voci che l'interesse si sarebbe appunto raffreddato. Probabilmente alla base di un'eventuale decisione negativa ci potrebbe essere appunto una riflessione sulla difficoltà sia di insomma lanciare un'OPA e fare successivamente uno spezzatino su una società così grossa, dato che le attività dovrebbero essere divise. E poi non dimentichiamo che Hershey insomma è una società già in pressione finanziaria adesso, già abbastanza indebitata, quindi fare un'offerta aggiungendo altri 7 miliardi di dollari di debito per lanciarla probabilmente avrebbe un effetto negativo sul suo rating. Quindi ci sono insomma una serie di elementi sicuramente che potrebbero a questo punto far propendere più per un no che per un sì, anche insomma le sorprese dell'ultimo minuto sono sempre possibili, però sembra che la lancetta sia spostata adesso in terreno negativo. Ed è veramente una saga, tutti la vogliono questa Cadbury a certi patti. Alcuni di voi ci chiedono 349-238-6666, ma perché è così importante? Beh, è il maggior operatore del settore dolciario da quando si è comprata le gomme da masticare Adam, so che fa ridere, ma tra l'altro Cadbury ha avuto anche per un bel po' di anni fino allo scorso marzo la Schweppes, ha 46.000 dipendenti e un fatturato di 6 miliardi di euro, per cui insomma queste sono le dimensioni del gruppo Cadbury, che da noi magari non è molto conosciuto, ma sicuramente è leader nel settore in Gran Bretagna, non solo. Grazie a Carlo Festa. Due note prima di lasciare la linea al GR. Alcuni di voi dicono che sarebbe sbagliato non citare i report, censurerei le notizie. Allora va bene, daremo anche i report alle banche d'affari, però poi non voglio sentire critiche su questi report e sul conflitto di interessi delle banche d'affari che lo emettono. Avete ragione anche, e siamo a due, nel citare i casi di Casa Nostra quanto a bonus. Non ci sono solo i manager americani, col massimo rispetto per una persona che molte volte sta anche ospite di questo programma, mi riferisco a Mario Resca, perché oggi si è saputo che l'emulamento, quanto guadagnerà per diventare commissario delegato del Museo di Brera a Milano, vale 2 milioni e mezzo di euro, che dovrebbero arrivare a 3 milioni e mezzo se si considerano tutte le figure, tutti i compensi delle varie figure citate nell'ordinanza oggi pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. E come promesso ci occupiamo adesso anche dei rendimenti dei bot, ma in generale, visto che è stato il tema di ieri, di quelle che sono le previsioni per gli investimenti nel 2010, cosa dovrebbe fare la borsa, che cosa dovrebbero fare altri strumenti. L'aggancio di cronaca, già lo ricordavamo, il rendimento dei bot a tre mesi è di nuovo sotto zero, quindi minimo storico, praticamente il rendimento lordo è dello 0,386% e i rendimenti netti, quindi se si leva la parte delle tasse, sono usciti sotto lo zero. E tra l'altro ricordo però che in caso di rendimento negativo si riduce, vorrei anche vedere la commissione delle banche. Ieri ne abbiamo parlato con l'astrologa. Ma non vi preoccupate, perché visto che alcuni hanno detto il programma perso di serietà, come si fa a fare le previsioni con l'astrologa, noi abbiamo fatto notare che nomi blasonati della finanza mondiale levano cannate molto più dell'astrologia queste previsioni, facendosi pagare anche un bel po' di più, e comunque torniamo a dare serietà a questo programma. La nona va bene? Spero di sì. E al di là della battuta, ci occupiamo di previsioni sui mercati con chi queste previsioni le fa e poi le applica tutti i giorni. Ingegner Pietro Giuliani, presidente e amministratore delegato di Azimut, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, astrologia a parte, ma, però lo sfizio me lo devo togliere, dottor Giuliani. Lei, insomma, da tanti anni che gestisce risparmio, gestito, mi scusi il gioco di parole. Lei le ha mai viste le previsioni astrologiche per i mercati? Ovviamente no. Beh, ovviamente non è mica scontato. E sa che in America c'è anche il monkey business, la scimmia che sceglie dove investire, delle volte ha battuto, diciamo, alcune grandi banche d'affari molto blasonate nel scegliere i titoli così, sì, a casaccio. Però vabbè, andiamo sulle cose più serie, o perlomeno più seriose. C'è chi dice che questo 2010, dove i mercati vengono da un 2009 in cui hanno guadagnato Milano un 20%, ma anche le altre borse, Londra un 22%, l'America un 20%, Parigi un 23%, Francoforte un 25%, già da inizio anno le borse sono tutte positive di un 2-2,5%, però siamo appena agli inizi. Dicevo, c'è chi dice, attenzione, qui si prospetta una correzione, e correzione vuol dire una caduta dei valori azionari, magari non molto forte, non drammatica, ma insomma significativa. E su questa riga, su questa falsa riga, sembrava muoversi la dichiarazione dello scorso 9 gennaio di Mario Draghi, governatore della Banca d'Italia e presidente del Financial Stability Board, che ha detto la situazione del sistema finanziario globale potrebbe non essere così buona come i mercati sembrano dare per scontato. Allora, correzione sì o correzione no? Allora, correzione già detta al singolare, in qualche modo dà quasi un'idea che ce ne sarà una sola. Io credo che al punto in cui siamo, dopo tutto quello che è successo direi negli ultimi mesi e anni, avere una volatilità molto alta nel 2010 è una cosa secondo me assolutamente ovvia. Noi sappiamo che ci sono ancora un'infinità di bolle e bollicine che ci sono in giro, ma che si stanno formando o riformando, per cui io credo che una volatilità e quindi delle correzioni o dei comportamenti dei mercati a denti di sega saranno assolutamente normali quest'anno. Quindi a dente di sega vuol dire su, chiaramente vuol dire su e giù con andamenti abbastanza ciclici. Una domanda, visto che lei parla di bolle e bollicine, a noi le uniche bolle e bollicine che piacciono sono quelle del vino e possibilmente italiano. Quali bolle e bollicine vede in giro invece? Ma allora, si è parlato ultimamente del problema che aveva la Grecia, abbiamo assistito ai problemi che c'erano a Dubai, sicuramente in Italia il settore immobiliare non ha assolutamente fatto scoppiare la bolla, che in altri paesi tipo Stati Uniti o magari Spagna invece è già esplosa. Allora, parlo di bolle e bollicine perché la Grecia come PIL è paragonabile alla Lombardia, quindi non credo che sarà un problema grosso per l'Europa se si vuol risolvere, però in ogni caso tutte queste cose nei periodi che abbiamo appena vissuto sicuramente non aiuteranno i mercati ad avere una bassa volatilità e sicuramente è abbastanza difficile provare a fare previsioni con tutto quanto questo marasma in giro che da un momento all'altro può esplodere sulla base di un qualunque evento o eventino geopolitico. Sì, è difficile fare le previsioni, però cerchiamo insomma di non essere meno dell'astrologa. E a parte le battute, dopo le informazioni per chi è in viaggio, vorrei capire intanto quello che voi chiamate il timing, cioè, c'è già il gioco a quando dovrebbero esserci queste correzioni, questo scoppio di piccole bolle o bollicine, e poi invece settori e aree geografiche, perché anche oggi abbiamo visto dei dati interessanti da India e Cina, addirittura lì il problema è il surriscaldamento dell'economia e le scommesse sono di tassi in aumento entro metà del 2010. Allora, continuiamo, tornati a essere seri, con le previsioni per l'anno sui mercati, azionari in primo luogo, ma non solo. Ingegner Giuliani, andiamo avanti, in quanto mi sto legato al presidente di Azimut. Lei ha parlato di correzioni, non di una correzione sola, di diverse correzioni, che in questo caso non è il titolo di un libro, quanta dinamica nei prossimi mesi. Vorrei capire se lei reputa così questo tentativo che vediamo da alcune parti di stabilire un tempo per queste correzioni, c'è chi dice entro gennaio oppure chi dice da aprile in poi, quando saranno uscite le trimestrali delle grandi banche americane, ma non solo, è un gioco da bar oppure si riesce già a individuare un, così, un tempo, un timing? Direi assolutamente di sì, mentre prenderei più seriamente quello a cui accennava prima e quindi la dichiarazione del governatore Mario Draghi, il quale parla di un sistema economico ancora fragile, e io qui farei senz'altro una considerazione in aggiunta a questo. Noi abbiamo due tipologie di aziende, quelle quotate in borsa, dalle quali in qualche modo poi dipendono i mercati, perché si basano su queste aziende, e la stragrande maggioranza, almeno numericamente, delle non quotate. Teniamo presente che tra queste due aziende ci sono due importantissime differenze. Tutte e due a vantaggio delle aziende quotate in borsa. La prima è che le aziende quotate in borsa, essendo normalmente di dimensioni più grandi, hanno avuto la possibilità con la crisi di tagliare o di diciamo smaltire il grasso in eccesso e quindi si sono adeguati al periodo di contrazione dei consumi con diciamo una ragionevole facilità. Quelle non quotate, soprattutto quelle di piccole dimensioni, magari anche a dimensione familiare, ovviamente non avendo questo grasso da poter smaltire, hanno avuto e potrebbero sempre più avere dei problemi a fronte di un'ulteriore contrazione dei consumi. Questo lei non lo dice perché voi siete quotati in borsa, vero? O meglio, rifaccio la domanda, questo che lei dice l'ha verificato anche personalmente con la vostra quotazione in borsa? No, non parlo tanto della mia azienda quando parlo di aziende di dimensioni molto maggiori. Per quello che riguarda la mia azienda invece, e questo senz'altro, può valere la seconda considerazione, l'accesso al credito per chi è quotato in borsa tramite l'emissione di obbligazione è più facile e quindi quasi è un non problema, mentre per tutte le aziende che dipendono per questo dal sistema bancario, con tutti i lacci e lacciuoli che il sistema bancario ha, di tipo normativo ma non solo, ovviamente le aziende non quotate hanno anche un'ulteriore difficoltà all'accesso al credito, e quindi praticamente abbiamo un mondo in chiaro scuro dove dalla parte del chiaro ci sono le società quotate che in qualche modo danno i numeri ai mercati, e poi ci sono le società non quotate che hanno un peso molto importante nell'economia, soprattutto se andiamo in paesi dove le borse sono ancora abbastanza giovani, soprattutto paesi emergenti. E allora a questo punto però non si può dire che l'economia, che è una sola, è molto solida, perché abbiamo visto la fragilità di tutta l'economia composta da aziende non quotate. Allora, torniamo ai consigli o le previsioni sull'investimento. Se ho ben capito, lei prevede un insieme di correzioni di diverse intensità e entità, quindi lungo l'anno, perché la fragilità resta, perché forse in alcuni settori si è corso un po' troppo. Posso aggiungere un elemento, però mi dica lei se non è d'accordo. Non è che magari i vari gestori, i suoi colleghi, le varie società, avendo guadagnato un 20% nel 2009, guadagnando qualcosa, a un certo momento alle prime avvisaglie andranno a vendere perché almeno si portano a casa gli utili? Ma allora, io non credo personalmente questo qui, anche perché poi nello scenario che le ho accennato era uno scenario tutt'altro che pessimistico. No, infatti. Io sono convinto che nel 2010 c'è spazio per un rialzo nei mercati azionari. È chiaro che la famosa volatilità può creare dei problemi. Non credo che in uno scenario di volatilità nessuno che abbia un minimo di professionalità o di serietà si proverà a cimentare nel portare a casa dei guadagni, perché si corre veramente il rischio di sbagliare il tempo, per cui bisogna essere molto bravi per farlo. A meno che non si segua l'astrologia. Andiamo avanti sul il rialzo complessivo. Molti suoi colleghi e anche analisti sostengono che comunque il 2010 non avrà le preoccupazioni, meno male, che ci ha dato il 2009, soprattutto a inizio anno, no? Il rischio di non tenuta del sistema finanziario e quant'altro. Però una volta che si è capita l'entità di questa crisi, che è pesante, sarà un anno così modesto, cioè non vi saranno grandi timori ma neanche grandi speranze. La disoccupazione continuerà a aumentare, i governi dovranno rientrare sul deficit, i deficit accumulati, i consumi partiranno molto molto lentamente, la Cina e l'India traineranno. Ecco perché i suoi colleghi dicono beh, insomma, non si andrà oltre un 5-10% in media di rialzo dei mercati. D'accordo? Allora, sostanzialmente questo è lo scenario più probabile. Dopodiché, su queste previsioni, con consenso unanime, mi permetto di dire questo: quando dopo marzo dello scorso anno, quindi nel 2009, è partito il rialzo, all'inizio tutti erano abbastanza tranquilli che fosse un rimbalzo tecnico e quindi un normale riposizionamento dei mercati. Poi cosa è successo? Che dopo un po' che questo rimbalzo tecnico durava, sia in termini di tempo che di entità, tutti quelli che erano rimasti fuori, in particolare investitori istituzionali, faccio esempio di grosse compagnie di assicurazioni che avevano azzerato le azioni rispetto agli eventi dell'anno precedente, del 2008, hanno avuto paura di perdere rialzo, sono cominciati a entrare e con la liquidità hanno spinto sicuramente molto forte e sicuramente molto oltre quello che si aspettava il rialzo, per cui io credo che una grande componente nel 2010 la costituirà la liquidità, che oggi è ancora molto abbondante, e che quindi questa, spostandosi da una parte o dall'altra, aumenta la volatilità ma influenza anche notevolmente la salita o la non salita dei mercati. Un'ultima domanda adesso sui settori, sulle aree geografiche, anche lì abbiamo visto, immagino che mi dica pure qualcosa, ma che i settori più colpiti, come quelli legati al consumo, saranno quelli con maggiori difficoltà. E sulle aree abbiamo detto ampiamente, ci sono tutte le previsioni dei vari istituti, bene l'Asia, un po' più lenta la ripresa europea e quella americana, vedremo con alcuni dubbi. Però vorrei capire una cosa molto banalmente, ma insomma, se lei dovesse darmi un consiglio, mi direbbe di mettere i soldi in BOT, cioè in titoli di Stato, obbligazioni, magari obbligazioni societarie. Abbiamo visto che chi ha chiesto soldi attraverso le obbligazioni ha avuto una bella domanda e anche una bella risposta in generale, oppure comunque di puntare sull'azionario. Ma io oggi, se dovessi proprio dar dei numeri tranchant in percentuali, metterei un 60% sulle azioni, ah, a sì? patto di ovviamente aver qualcuno che le sceglie per il cliente medio, sull'obbligazionario io non metterei oltre il 15% oggi, metterei un 25% in liquidità, con l'attenzione che al salire dei tassi, diciamo dell'1%, almeno un 10% passa dalla liquidità all'obbligazionario. Ecco, perché è così bassa la parte in obbligazione? Cioè, io non intendevo solo obbligazioni di Stato, mi sembra di capire che lei comunque non prevede un rialzo dei tassi importante, dei tassi di interesse nel 2010, ma pensavo anche alle obbligazioni societarie, grandi gruppi che hanno chiesto soldi sul mercato. Il problema è che in questo momento il rischio che si prende su un corporate bond non è troppo lontano da quello che si prende su un'azione, e con i tassi così bassi comunque spesso i dividendi e la rivalutazione che si hanno con un'azione tipo utilities, quindi insomma municipalizzate, aziende di questo tipo, sono assolutamente in termini di rischio paragonabili a operazioni, a obbligazioni corporate. In termini di rendimento forse molto più interessanti, e quindi non andrei più di tanto dietro a questo fenomeno. Mi dice, per concludere, un paese o un settore in cui non metterebbe i soldi di suo figlio, e un paese, un settore in cui è un paese, un settore in cui li metterebbe o consiglierebbe a suo figlio di metterli? Allora, siccome mio figlio è ancora molto giovane, no, troppo facile, diciamo i soldi che gli serviranno per studiare all'università. Ok. Allora, io credo che senz'altro i paesi emergenti quest'anno dovrebbe andare molto bene, salvo scenari apocalittici in cui abbiamo di nuovo problemi in tutto il mondo. Gli Stati Uniti vanno un po' meglio, soprattutto in questa prima fase dell'anno, rispetto all'Europa, anche se un eventuale apprezzamento del dollaro potrebbe comunque avvantaggiare anche l'Europa. Di conseguenza sovrappeserei rispetto al normale i paesi emergenti, sovrappeserei in questa prima fase gli Stati Uniti rispetto all'Europa, per quello che riguarda i settori, lo abbiamo già detto, gli industriali americani soprattutto in questa prima fase dovrebbero andare abbastanza bene, gli utilities sicuramente, diciamo che investirei così, però questo più che farlo io lo lascerei fare a un gestore, io mi limiterei ad affidare le soldi a qualche buon gestore. Vabbè, con commissioni magari regolari, diciamo con rendimenti passati di lungo periodo più alti di quelli degli altri, così poi le commissioni sono già implicite nel rendimento. Allora, la domanda che vorrei veramente fare non gliela faccio, cioè se i soldi di suo figlio li metterebbe nel gruppo Azimut. La saluto e auguro buon anno chiaramente al presidente amministrativo di Azimut, Pietro Giuliani. Grazie, tanti auguri anche a voi e ai nostri radioascoltatori. E adesso, con questa intervista, avete modo di confrontare quello che ha previsto l'astrologa ieri, quello che ha previsto un professionista del risparmio gestito oggi. Massima laicità, insomma, errare è umano, basta saperlo riconoscere. Due notizie prima di concludere, visto che il programma è tornato alla serietà, all'ortodossia che alcuni invocavano ieri dopo l'astrologa. Poco fa è tornato sul tema con cui abbiamo aperto il programma, e quindi i bonus ai manager bancari, ma non solo. È tornato sul tema però da un punto di vista europeo il commissario dell'Unione Europea, Joaquín Almunia, ha detto: non accetteremo che i denari pubblici utilizzati per salvare le banche in difficoltà vengano spesi per aumentare i bonus e le remunerazioni dei manager. Quanto alla tassazione delle transazioni finanziarie, quella che una volta si chiamava Tobin Tax, ma insomma, ha detto Almunia, è un'ottima idea anche se difficile da applicare, ma vale la pena approfondirla. L'altra notizia invece arriva dall'America, da Detroit, dove ha parlato Sergio Marchionne, ha confermato che di nuovo Termini Imerese chiuderà nella data prevista, quindi entro il 2012, e per quello che riguarda lo sforzo fatto nel 2004 per il rilancio della Fiat, Marchionne ha detto: lo sforzo era a fine giornata indescrivibile, mi sentivo come Don Quixote contro i mulini a vento, anche perché la Fiat è molto più grande di Chrysler e per questo più complessa. E poi in Italia non ho avuto l'aiuto che il Tesoro americano mi ha dato per Chrysler. Questa è l'ultima notizia di questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.